Capitolo VII. I riti di conclusione. Non ama Cristo chi non ama la Santa Messa, chi non si sforza di viverla con calma e serenità, con devozione, con amore. L'amore affina gli innamorati, li rende più delicati, li porta a scoprire e curare tanti particolari, magari minimi, ma sempre significativi della vibrazione di un cuore appassionato. È in questo modo che dobbiamo assistere alla Santa Messa. Penso perciò che coloro che vogliono ascoltare una messa corta e frettolosa dimostrano con un contegno per giunta poco elegante di non aver compreso il senso e il valore del sacrificio dell'altare. Terminata l'orazione dopo la comunione, il sacerdote saluta i fedeli, augurando loro che il Signore che hanno ricevuto sacramentalmente o spiritualmente sia sempre con loro. Poi il celebrante imparte loro la benedizione. Con Cristo nell'anima termina la Santa Messa. La benedizione del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ci accompagna per tutta la giornata, mentre ci impegniamo con semplicità e naturalezza a santificare tutte le nobili attività umane. Ite, missa est, dalla messa alla missione. Tale è il significato della frase latina Ite, missa est, che conclude la celebrazione eucaristica. Benedetto XVI, accogliendo alcuni suggerimenti formulati nel Sinodo dei Vescovi sull'Eucarestia, rileva: in questo saluto ci è dato di cogliere il rapporto tra la messa celebrata e la missione cristiana nel mondo. Nell'antichità missa significava semplicemente dimissione, tuttavia essa ha trovato nell'uso cristiano un significato sempre più profondo. L'espressione dimissione in realtà si trasforma in missione. Questo saluto esprime sinteticamente la natura missionaria della Chiesa. Pertanto è bene aiutare il popolo di Dio ad approfondire questa dimensione costitutiva della vita ecclesiale, traendone spunto dalla liturgia. Poiché è centro e radice della vita spirituale del cristiano, la Santa Messa costituisce la sorgente di energia soprannaturale che permette di impegnarsi a fondo nell'apostolato. Proprio perché si è unito al sacrificio di Cristo presente sull'altare e perché ha preso parte al corpo del Signore, il fedele cristiano è in condizione di portare il messaggio di Gesù ai suoi vicini e ai parenti, ai colleghi, a tutte le persone in cui si imbatte nelle sue attività quotidiane. Nella lettera apostolica Dies Domini, dedicata alla celebrazione domenicale, il Papa Giovanni Paolo II mostra come la partecipazione devota e attenta al Santo Sacrificio costituisce l'impulso decisivo per dare compimento alla missione apostolica affidata a tutti noi. Osservava: ricevendo il pane di vita, i discepoli di Cristo si dispongono ad affrontare, con la forza del risorto e del suo spirito, i compiti che li attendono nella loro vita ordinaria. In effetti, per il fedele che ha compreso il senso di ciò che ha compiuto, la celebrazione eucaristica non può esaurirsi all'interno del Tempio. Come i primi testimoni della risurrezione, i cristiani, convocati ogni domenica per vivere e confessare la presenza del risorto, sono chiamati a farsi nella loro vita quotidiana evangelizzatori e testimoni. L'orazione dopo la comunione e il rito di conclusione, benedizione e congedo, vanno sotto questo profilo riscoperti e meglio valorizzati, perché quanti hanno partecipato all'Eucaristia sentano più profondamente la responsabilità ad essi affidata. Dopo lo scioglimento dell'assemblea, il discepolo di Cristo torna nel suo ambiente abituale, con l'impegno di fare di tutta la sua vita un dono, un sacrificio spirituale gradito a Dio. Romani 12:1. Egli si sente debitore verso i fratelli di ciò che nella celebrazione ha ricevuto, non diversamente dai discepoli di Emmaus, i quali, dopo aver riconosciuto alla frazione del pane il Cristo risuscitato, Luca 24, 30-32, avvertirono l'esigenza di andare subito a condividere con i loro fratelli la gioia dell'incontro con il Signore, Luca 24, 33, 35. Ringraziamento dopo la messa. Quando il tempo dedicato al ringraziamento all'interno della messa è troppo breve, può essere buona norma, a meno che altri obblighi urgenti non lo impediscano, prolungare il ringraziamento per alcuni minuti, individualmente, dopo la fine del Santo Sacrificio. L'amore per Cristo, che si offre per noi, ci fa trovare al termine della messa alcuni minuti per un ringraziamento personale, intimo, che prolunghi nel silenzio del cuore l'azione di grazia dell'Eucaristia. Come rivolgersi a Lui, come parlargli, come comportarsi? La vita cristiana non è fatta di rigide norme, perché lo Spirito Santo non guida le anime in massa, ma in ciascuna infonde quei prepositi, quegli affetti e quelle ispirazioni che la aiuteranno a comprendere e a compiere la volontà del Padre. Penso tuttavia che molte volte oggetto fondamentale del nostro dialogo con Cristo può essere la considerazione che il Signore è per noi Re, Medico, Maestro, Amico. Forse a volte ci capita di non saper parlare con il Signore. Forse ci mancano le parole appropriate perché ci sentiamo aridi, perché affluiscono nella nostra mente le preoccupazioni della giornata o semplicemente perché siamo stanchi. È allora un buon momento per aprire un libro di preghiere e recitare lentamente, assaporandola, qualche preghiera piena di atti di fede, di speranza e d'amore. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Questa o un'altra fa lo stesso. L'importante è che ci sforziamo di riempire quei minuti di vero e intimo rapporto con il Signore. Consideriamo nel nostro esame di coscienza se a volte non ci capita di lasciarci prendere dalla fretta senza che sia davvero necessario. Se accorciamo questi minuti di dialogo amichevole e intenso con Gesù, che ci aiutano a restare in amicizia con Dio lungo tutta la giornata. Sulla messa e sull'orazione perseverante, piene d'amore e di fiducia, si fondano la nostra esistenza cristiana e anche la preoccupazione sincera di aiutare gli altri. Esse aumentano profondamente in noi la fede, fanno crescere la speranza, infiammano la carità. Grazie al sacrificio dell'altare, nel cuore si rafforza il senso della filiazione divina, che si trasforma in un vero e proprio istinto soprannaturale, capace di innalzare al cielo tutto il nostro agire e di vivificarlo. La messa è la fonte della nostra unità di vita. L'identificazione con Cristo nel sacrificio eucaristico, un'identificazione che la preghiera in qualche modo prolunga e promuove, ci rende efficaci nel nostro apostolato, compito specifico di ogni cristiano. Dedichiamoci a un apostolato costante con questa certezza soprannaturale. Riempiamoci di entusiasmo divino e umano nel desiderio di permeare della dottrina e dell'amore di Cristo gli ambienti e le situazioni nelle quali ci troviamo. In effetti, non possiamo tenere per noi l'amore che celebriamo nel sacramento. Esso chiede per sua natura di essere comunicato a tutti. Ciò di cui il mondo ha bisogno è l'amore di Dio, è incontrare Cristo e credere in Lui. Per questo l'Eucaristia non è solo fonte e culmine della vita della Chiesa, lo è anche della sua missione. Una Chiesa autenticamente eucaristica è una Chiesa missionaria. Anche noi dobbiamo poter dire ai nostri fratelli con convinzione: quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. Prima Giovanni 1:3. Veramente non c'è niente di più bello che incontrare e comunicare Cristo a tutti. Non possiamo accostarci alla mensa eucaristica senza lasciarci trascinare nel movimento della missione, che prendendo avvio dal cuore stesso di Dio, mira a raggiungere tutti gli uomini. Di fronte al compito della nuova evangelizzazione della società, compito nel quale siamo tutti impegnati, dobbiamo dire sì a Dio, prendendo come ragione suprema del nostro impegno il sacrificio eucaristico. Nella messa troviamo energie sempre nuove per realizzare un profondo e capillare apostolato in mezzo al mondo, Sforziamoci di trasformare ogni giornata in una messa, mediante la nostra unione strettissima con Cristo nel sacrificio dell'altare. Da lì trarremo la forza per amare tutti, come faceva Cristo stesso nella sua misericordia, quando si commuoveva davanti alle folle, davanti all'umanità intera. Lui ha donato se stesso per redimerci, pagando il prezzo infinito del suo sangue, come ricorda San Paolo. 1 Corinzi 6:20, 7:23. Per concludere queste considerazioni sui riti liturgici della Messa, rivolgiamo gli occhi alla Santissima Vergine, Madre di Dio e Madre nostra. Quando il Santo Pontefice Pio X dette notevole impulso alla pratica della comunione frequente, si diffuse in alcuni luoghi un'immaginetta che raffigurava Maria in adorazione dell'Ostia Santa. Oggi, come allora e come sempre, la Madonna insegna a metterci in rapporto con Gesù, a cercarlo e a riconoscerlo nelle diverse circostanze della giornata, e in modo particolare in questo istante supremo, in cui il tempo si unisce all'eternità, del santo sacrificio della Messa. Gesù, con gesto di sacerdote eterno, attrae a sé tutte le cose, per porle, divino afflante spirito, con il soffio dello Spirito Santo, alla presenza di Dio Padre.